Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, per quello che riguarda Finmeccanica, dopo l'arresto ieri del presidente, a questo punto Orsi, il titolo perde adesso il 4%, quindi il calo c'è, pesante, meno di ieri, ma c'è ed è ancora pesante. Le indagini vanno avanti, ci sono anche notizie non belle che arrivano dall'India per quello che riguarda il gruppo Finmeccanica. Ne parleremo nella seconda ora del programma, anche perché al di là del fatto che l'India abbia però il ministro della difesa non ha confermato questa notizia, comunque sembrerebbe che l'India abbia congelato il pagamento degli elicotteri, non li ritirerà più fino al termine dell'indagine, i 12 elicotteri che sono un contratto da 750 milioni di dollari. Il Ministero della Difesa in realtà ha detto di non essere al corrente di alcuna decisione al riguardo, era una Reuters, un'agenzia di stampa internazionale, che citava invece il Ministero della Difesa, il quale ha smentito. Il Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica si è riunito, di questo parleremo, anche perché è inutile nascondersi, basta leggere oggi il Sole 24 Ore, c'è chi sostiene che il governo avrebbe dovuto intervenire prima sui vertici di Finmeccanica. C'erano già delle indagini conosciute in corso, sostanzialmente il Tesoro, che è l'azionista di riferimento del gruppo Finmeccanica, poteva provvedere prima a cambiare i vertici in modo da eliminare l'imbarazzo, visto che purtroppo la notizia ha avuto ampia eco su tutta la stampa internazionale, l'imbarazzo causato. È innegabile infatti che un conto è dare gli arresti e portare in carcere un ex amministratore delegato o presidente, un conto è arrestare e incarcerare l'attuale e operativo amministratore delegato e presidente. Non c'è paragone tra l'impatto, non solo sul mercato, ma per le due cose. In apertura però parleremo del mondo dell'edilizia, perché oggi c'è stata una manifestazione che già dal titolo la dice lunga, la giornata della collera per i lavoratori dell'edilizia, che lamentano in questi 5 anni la perdita di 500.000 di posti di lavoro, 55.000 posti di lavoro persi nella sola Lombardia, e un'impresa su 4 dall'inizio della crisi, quindi dal 2008, ha chiuso i battenti. Quindi stiamo parlando di 40.000 imprese dell'edilizia, di cui 2.300 nella sola Lombardia, e in 6 anni gli investimenti nell'edilizia hanno fatto meno 30%. Di questo parleremo in apertura, dicevo, e poi la vicenda invece Peugeot, perché insomma i dolori ci sono anche in Francia, e non si può certo dire in questi casi mal comune mezzo gaudio. Ma cosa è successo? I conti del gruppo Peugeot Citroën PSA sono con un rosso da record, meno 5 miliardi di euro, come ha chiuso il gruppo il 2012, forti svalutazioni, mercato negativo, fatturato ha fatto meno 5% e meno 10% ha fatto la divisione auto, con un calo delle vendite di quasi il 9%. Il ministro francese delle finanze Moscovici ha detto: non facciamoci prendere dal panico, occorrerà un'azione risoluta condotta dai dirigenti dell'impresa con l'appoggio dello Stato. E quindi si preannuncia, poi cercheremo di capirlo, un ingresso dello Stato nel gruppo PSA. 349-238-6666 per i vostri SMS e anche la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. Partiamo dalla borsa, perché al di là di Finmeccanica la borsa guadagna uno 0,70%, Francoforte più 0,80%, Parigi più 0,50%, Londra più 0,60%, l'America invece meno 0,20%. Oltre a Finmeccanica negativa, oggi anche la Popolare di Milano molto altalenante, oggi meno 3,20%, Popolare Emilia Romagna meno 1,20% come Monte dei Paschi. Chi guadagna invece è Exor, la controllante del gruppo Fiat, più 3,40%, Buzzi Unicem più 3, Mediaset più 2,70%, Prismian più 2,60%, Tenaris più 2%, Lottomatica più 1,70%, Enel Green Power più 1,60%, Fiat Industrial più 1,5% come Atlantia e Luxottica più 1,40%. Bene anche Autogrill più 1,30% come Toz ed Eni, Fiat più 1,30%, Campari più 1,20% come Telecom Italia, Azimut più 1,20%. L'euro sul dollaro a quota 1,34,79. Andiamo avanti con le altre notizie. La benzina oggi millesimo dopo millesimo, i prezzi del carburante stanno lentamente però purtroppo ininterrottamente risalendo, a quota 1,8 euro per il diesel, 1,9 euro per la benzina. È qualche settimana che le compagnie petrolifere stanno ritoccando i prezzi verso l'alto. Tra l'altro il petrolio è in lieve rialzo, va a $97,60 al barile. Però sulla valuta non c'è solo il braccio di ferro e anche la figura peregrina che ha fatto ieri il G7 con il suo comunicato, braccio di ferro, dicevo, tra Francia e Germania. Oggi riconosce il governatore della banca centrale inglese Mary King che avere svalutato, deprezzato la sterlina è stata una condizione necessaria per rimettere in equilibrio l'economia della Gran Bretagna ed è una conseguenza inevitabile della politica monetaria adottata dalla Banca d'Inghilterra. Ora poi nelle poche ore dall'inizio del G20 a Mosca, dove si discuterà di valute e di cambi, però è interessante notare che anche la Gran Bretagna dice che ha svalutato la sterlina per rimettere in equilibrio la sua economia. La stessa cosa la dice l'America, la stessa cosa la sta facendo il Giappone, e invece noi abbiamo, diciamo, l'ortodossia tedesca che dice no, l'euro va benissimo così, non si può svalutare, ha detto ieri il presidente della Bundesbank, della banca centrale tedesca, non è quello un modo per recuperare competitività. Evidentemente in Gran Bretagna, Giappone e Stati Uniti la pensano in maniera diversa, ma diciamo, noi continuiamo a fare i primi della classe. L'asta del tesoro, quindi anche oggi abbiamo dovuto trovare compratori per il nostro debito. Il BTP a 15 anni ha visto un tasso in calo al 4,55%, questa è una buona notizia, ripetiamo sempre. Meno interessi dobbiamo fornire per trovare compratori per il nostro debito, più risparmiamo come paese, come Stato. Era il 4,75% quello che abbiamo dovuto offrire a dicembre, oggi solo tra virgolette il 4,55%. Però il titolo a 30 anni ha visto il tasso di interesse tornare sopra il 5%. È praticamente dal maggio 2011 che non emettevamo BTP a 30 anni. BTP a 30 anni vuol dire che chi se le compra dà una grossa fiducia al paese, pensa che l'Italia potrà ripagare il suo debito anche fra 30 anni, per dirla tutta, no? Per cui non li mettevamo dal maggio del 2011, perché poi iniziò l'attacco e lo spread iniziò a crescere e non aveva senso emettere un BTP a 30 anni. Allora il rendimento fu del 5,43%, oggi è stato del 5,07%, quindi inferiore all'ultima asta a 30 anni che era quella del maggio 2011, per cui anche questa è una buona notizia. Cosa è salito? È salito invece il BTP a 3 anni al 2,30% contro l'1,85% dell'asta di gennaio. Però su questo è tornato anche il premier uscente Mario Monti, che ha detto perché votare noi, siamo gli unici che hanno dato prova di capacità di governo, mentre ci sarebbero grossi rischi di ricreare l'incendio finanziario se gli italiani dessero retta all'offerente di promesse illimitate a Berlusconi. E poi ha continuato anche su Finmeccanica, adesso vista la situazione nella quale si trova il presidente e l'amministratore delegato di Finmeccanica, siamo in grado di prendere provvedimenti ai fini di assicurare la corretta governance della società del gruppo. In realtà, secondo alcuni osservatori, il governo doveva muoversi prima, perché c'erano già tutte le condizioni per chiedere a Orsi di farsi da parte ed evitare, diciamo, uno scandalo come quello avvenuto ieri. E per quanto riguarda la legge anticorruzione, sempre Monti ha detto: l'abbiamo fatta per la prima volta e l'abbiamo portata all'approvazione parlamentare, malgrado il fatto che il PDL ci fece togliere alcune cose che non appena avremo l'occasione riproporremo, perché i fatti si incaricano di sottolineare l'importanza di una forte legge contro la corruzione. E poi il ministro Grilli che dice: per Finmeccanica è un momento grave, e su questo ci eravamo arrivati anche noi, massimo impegno, monitoriamo la situazione, siamo fiduciosi delle decisioni che arriveranno dal Consiglio di Amministrazione di oggi. Veniamo alla produzione industriale italiana, meno e anche europea, perché la produzione industriale in Europa nel 2012, scusatemi, ha fatto un meno 2,3%. Nonostante un piccolo rialzo a dicembre, l'Italia ha registrato purtroppo con la Spagna il calo più forte dell'intera area euro nella produzione industriale, cioè la nostra produzione industriale è calata di un 6,6% l'anno scorso. E che sia stato un 2012 difficilissimo lo conferma oggi anche il CERVED, perché ha pubblicato i dati, dunque perse 100.000 imprese scusatemi nel 2012, 90.000 per liquidazioni di impresa, 12.000 per fallimenti. Vi è stato anche un boom di fallimenti concordati, oltre 2.000, che il dato complessivo fa appunto 104.000 imprese in meno. E questo, diciamo, la dice lunga sulla difficoltà che sta attraversando il nostro sistema di impresa. Tra l'altro anche sulla manifestazione dell'edilizia ne parleremo, è intervenuto anche il presidente di Confindustria Squinzi. Dicevo, difficoltà del nostro sistema di impresa, però e ne parleremo tra poco, la notizia più forte dal punto di vista dei grandi gruppi industriali riguarda oggi il gruppo PSA, Peugeot Citroën, 5 miliardi, dicevo, di perdita, e quindi è un intervento anche molto preoccupato del ministro alle finanze francese Moscovici. Importante quello del ministro francese delle finanze, non perché, insomma, dice non facciamoci prendere dal panico, in questo ha ragione, ma perché, se ho ben capito, fa già intravedere che lo Stato francese potrebbe diventare azionista della Peugeot Citroën. Un auspico che non vi sia quella forma di panico, ha detto il ministro dell'economia francese, ma un'azione risoluta condotta dai dirigenti dell'impresa con l'appoggio dello Stato. Il numero uno del gruppo, Philippe Varin, ha detto che il 2012 è stato un anno spossante per il gruppo Peugeot Citroën e per l'intero settore automobilistico europeo. Il corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi, Marco Mussanè, buonasera. Buonasera a voi. Allora, è un po' forzata la mia analisi o lo Stato o Moscovici ha detto sostanzialmente: se butta male, noi siamo pronti a fare un nostro ingresso nel capitale? Beh, diciamo che l'ipotesi in questo momento, secondo me, non è sul tappeto, nel senso che lo Stato è già intervenuto con una garanzia sulle emissioni obbligazionarie della banca captive di PSA, che era in oggettive difficoltà, e questo dovrebbe consentire al gruppo di non avere grossi problemi di liquidità a breve e a medio termine. Inoltre, stando ai conti presentati stamattina, il gruppo ha fatto una grossa operazione di pulizia con una svalutazione imponente di asset per quasi 4 miliardi. E quindi diciamo che a questo punto il gruppo è nelle condizioni di poter, diciamo, ripartire, di poter in qualche modo rimbalzare. Quindi, a meno che la situazione del mercato europeo, su cui PSA è ancora fortemente presente, non si riveli nel corso del 2013 molto più problematica di quanto non dicano le previsioni, che parlano di un calo della domanda tra il 3 e il 5%, PSA dovrebbe farcela e quindi non ci dovrebbe essere un ulteriore intervento pubblico. Dopodiché lo Stato in Francia ha sempre detto che non lascerà, non consentirà che la sua industria automobilistica scompaia, fallisca. Quindi è evidente che questa è una linea, diciamo, in qualche modo che dura da sempre, in parte è vera anche per altri settori considerati strategici. Quindi è evidente che qualora davvero PSA non dovesse farcela, l'idea di un possibile salvataggio pubblico con l'ingresso dello Stato nel capitale è possibile. Non mi sembra che sia francamente un tema oggi di attualità. Senti Marco, siccome il gruppo Peugeot Citroën significa 100.000 dipendenti in Francia, se non ricordo male, 91.000 dipendenti. Ecco, i motivi per cui si è arrivati a 5 miliardi di rosso nel bilancio 2012 e soprattutto la recente alleanza con General Motors potrebbe portare quella sinergia positiva, diciamo, nel caso Fiat Chrysler è stata Fiat che ha salvato la Chrysler e non viceversa, ma insomma potrebbe arrivare da lì una svolta, perché è un'alleanza appunto ancora fresca. Beh, secondo me dall'alleanza con GM possono arrivare alcune sinergie interessanti per quanto riguarda la condivisione dei costi progettuali di alcuni modelli e anche di alcune piattaforme produttive. Non credo che sarà questa la salvezza eventuale di PSA. Io penso che sia uno dei pezzi del puzzle. Penso che PSA debba in qualche modo salvarsi da sé. Ripeto, la situazione è molto meno drammatica, nonostante i 5 miliardi di perdite, che sicuramente rappresentano una cifra pazzesca, PSA si trova in condizioni decisamente migliori oggi rispetto a un anno fa. Sono state fatte delle dimissioni importanti, è stato fatto un piano di tagli dei costi importante, c'è un nuovo piano di ristrutturazione che i sindacati hanno sostanzialmente ormai condiviso e che consentirà un ulteriore importante alleggerimento, ci sono alcune misure pubbliche che contribuiranno a sostenere lo sforzo che PSA sta compiendo, basta pensare al credito d'imposta che consentirà di risparmiare altri 100 rotti milioni. Ma soprattutto diciamo che ormai il grosso degli investimenti che PSA doveva fare per recuperare il ritardo che aveva accumulato nella sua presenza sui mercati extraeuropei, in particolare in Sud America e in Cina, sono stati fatti. Ora si tratta davvero in qualche modo di cominciare a raccogliere i frutti, tant'è vero che è previsto un'importante riduzione delle spese in investimenti. Perché le joint venture sono state fatte, i nuovi impianti sono stati fatti in Brasile come in Cina, come in India, mi sembra che PSA abbia in qualche modo appunto fatto una grossa operazione di pulizia e di rimessa in ordine della sua situazione e oggi può provare a ripartire su basi sicuramente più sane. Ecco Marco, nel salutarti ho una curiosità che non c'entra col gruppo Peugeot Citroën ma con l'industria della difesa dell'aerospazio francese, tu immagini già dove sto arrivando, nel senso che oggi in prima pagina su Sole 24 Ore c'era un articolo di Claudio Gatti che ricordava come anche in Francia, in fronte agli scandali su Thales, che è un colosso nel settore dello spazio difesa. Giusto per capirci, siccome la polemica ieri è stata, allora le tangenti sono sempre sbagliate, sono un reato. Altra cosa è però ragionare su quando un grande gruppo della difesa dell'aerospazio deve andare a fare gare internazionali dove si pagano consulenti per la mediazione. Poi alcuni dicono che questa è la busta, ho capito, ma si pagano, lo fanno anche gli altri, sono persone ben introdotte che dovrebbero dare una mano, fare lobby, chiamiamola così, e su questo io mi scandalizzerei molto di meno. Citavo il caso appunto, spesso le aziende del gruppo Finmeccanica sono concorrenti di aziende americane nell'aerospazio difesa o di aziende francesi, che sono tra i leader del mercato. Ecco, in Francia da questo punto di vista c'è un più realismo, cioè un conto alla tangente che poi serve per pagare i partiti, quello è reato e basta. Altra cosa è dire che se il gruppo Thales o altri gruppi devono andare a vincere gare nel mondo, possono anche avere forme di pagamento, di mediazione, di consulenti che hanno accesso anche, e quindi gareggiare alla pari. Su questo c'è un approccio un po' più realistico o è meno da demi-vierge, visto che parliamo con te? Io proverei a fare un ragionamento un pochino più generale, se mi consentite. Io trovo, cioè, mi fa un po' ridere francamente questo comportamento, questa reazione da anime belle. Fino ad alcuni anni fa le regole degli scambi commerciali internazionali consentivano addirittura di detrarre dalle spese delle aziende, le spese sostenute per pagare i mediatori d'affari internazionali. Ora, da alcuni anni, grazie in particolare, devo dire, allo sforzo dell'OCSE in questo senso, che ha giocato una partita importante anche di sollecitazione dei governi, si è deciso di cambiare completamente strada, si è deciso di imboccare la strada di un mercato mondiale trasparente e pulito. Benissimo, giustissimo, ma è come scandalizzarci perché scopriamo che i ciclisti si dopano. Cioè, io credo che nessuno di noi che ha mai avuto un ragazzo che faceva ciclismo in casa può anche solo pensare che i ciclisti corrano grazie alle loro esclusive forze e che non utilizzano sostanze via via proibite. Allora, giustissimo. Proviamo a costruire un mondo diverso in cui tutti si comportano bene, in cui tutti sono carini e simpatici. Non è così però, non è così. La battaglia sui mercati non è così, è una battaglia all'ultimo sangue, si combatte con tutte le armi e si continuerà a combattere con tutte le armi. Si potrebbe provare ad allargare un po' il discorso. Ma proviamo, è una cosa, come dire, normale e accettabile che alcuni paesi utilizzano le svalutazioni monetarie per sostenere artificialmente le loro esportazioni. È normale che in alcuni paesi che non fanno parte dell'Unione Europea gli stati siano liberi di sostenere finanziariamente le loro aziende attivissime all'export, mentre in Unione Europea questo non è possibile farlo perché abbiamo deciso di vietare gli aiuti di Stato. Cioè, devo dire, il discorso mi sembra un pochino più articolato e complesso. Sì. Guarda, io al di là dell'esempio del doping non sono d'accordo, perché insomma quello è sempre sbagliato, però è vero dire, ed è giusto dire. Io non sto dicendo che non è sbagliato, sto dicendo che non facciamo finta che non esiste. Il doping va combattuto, a mio avviso, come le tangenti vanno combattute, perché qui il problema è capire se questa ipotesi di maxi tangente da 51 milioni di euro su una commessa da 560, cioè il 10%, è stata pagata solo per ottenere, diciamo, dei canali che cercavano anche gli altri con l'ex ministro della difesa indiano, e quindi per fargli fare la consulenza, la lobby, la mediazione, oppure se è stata utilizzata anche per dare soldi ai partiti o girare altri soldi in Italia, perché in questo caso è un reato e basta. Detto questo, è verissimo che una volta le spese per mediazione, ora chiamiamole anche Maria se volete, ma le spese per mediazione vuol dire che tu vai in un paese, vai in Nigeria, in Algeria, in, in Brasile, negli Emirati Arabi, in India, ti trovi un mediatore che quale caratteristica ha questo mediatore? Che conosce, ha rapporti istituzionali, no? E dice io posso creare una corsia di vantaggio per la tua gara, siccome lo fanno anche gli altri, lo fai anche tu, perché non sei l'ultima, diciamo, delle vergini sul mercato. E questo mediatore una volta si poteva mettere anche in bilancio, addirittura si detraeva dalle spese. Allora a me basterebbe che le spese per mediazione fossero messe in maniera trasparente in bilancio. Poi uno capisce che hai dovuto ottenere contatti ai massimi livelli, diciamo così, del mediatore d'affari, perché lo stavano facendo anche gli altri. Ripeto, se tutti vogliamo concorrere al modo pari, se tutti utilizzano un mediatore d'affari, non si capisce perché il gruppo italiano che deve fare una gara all'estero non possa utilizzarlo. Questo per essere proprio papali puliti. Grazie a Marco Mussanè in collegamento con noi da Parigi. Torneremo sulla vicenda Finmeccanica. Nessuno ha detto che pagare le tangenti all'estero va bene e pagarle in Italia invece è un reato. Ho detto semplicemente, e questo vale anche per l'Italia, voglio dire, se uno lobbismo, vogliamo parlare di lobbismo, ma cosa pensate che faccia un lobbista nella vita? Cioè, che in America hanno anche il loro albo e operano attivamente al Senato e al Congresso. Cosa fa un lobbista? Conosce, mette in comunicazione, mette in contatto, tu hai bisogno che una legge venga e sia sensibile a una determinata categoria, il lobbista ti mette in contatto. Oh, in America è tutto legale, non stiamo mica parlando dello Zimbabwe, eh? Uno, due, mi spiegate, per non essere proprio sempre così naif, perché gli ex presidenti americani, tedesco, penso a Schröder, britannico, penso a Blair, quando finiscono di fare il presidente del Consiglio, il primo ministro, spesso diventano consulenti di grandissimi gruppi internazionali, delle banche d'affari, di grandi gruppi. Perché? Ma per i contatti che hanno sviluppato nella loro attività politica. Allora, vogliamo ragionare del mondo che c'è o del mondo che non c'è e di quello che vorremmo? Tutto qua. Allora, vediamo di ragionare, e offrono le loro consulenze perché hanno, nell'attività politica che hanno svolto, ricevuto moltissimi contatti. Se tutto è trasparente, se la consulenza viene fatturata, se viene messa a bilancio, ma qual è il problema? Uno vuole sbarcare in Kazakistan e cercherà quello che è il mediatore d'affari più bravo del Kazakistan, nella massima trasparenza. Basta non pensare che le gare internazionali con appalti da centinaia di milioni si facciano semplicemente mandando la foto dell'elicottero o il prospetto dell'elicottero. Ma quando mai? Ma qualcuno deve anche imparare a vedere come funzionano queste cose. E quanto pesano, per esempio, le diplomazie dei singoli paesi? La Germania, quando va a fare i contratti in Cina, paese noto per avere un certo atteggiamento con la mediazione d'affari, la Germania si porta i ministri, si porta la Merkel, pertanto è importante, diciamo, il peso politico su contratti da centinaia di milioni di dollari, se vogliamo parlare del mondo reale. Comunque, parliamo invece di chi in questo periodo non ha portato a casa contratti, anzi ha visto la perdita di 550.000 posti di lavoro, di cui 55.000 sono in Lombardia. Sono le imprese della nostra edilizia. Dall'inizio della crisi sono 40.000 le imprese dell'edilizia che hanno chiuso, una su quattro, 2.300 nella sola Lombardia, e con investimenti calati del 30% negli ultimi 6 anni, meno 26% il valore della produzione sempre in questi 6 anni. Siamo ai livelli di produzione nel mondo dell'edilizia degli anni 40, quindi di 40 anni fa, scusatemi, abbiamo fatto un balzo indietro di 40 anni. Vorrei parlarne con chi oggi ha indetto una manifestazione anche molto dura, che si chiamava Giornata della Collera, davanti a Piazza Affari, ossia tutti gli operatori dell'edilizia in Lombardia. Siamo in collegamento col presidente di Asso Impredi Lance Lombardia, Claudio De Albertis. Buonasera. Buonasera. Beh, Giornata della Collera non era proprio soft, no? E perché davanti a Piazza Affari? Beh, Giornata della Collera soft, forse la situazione in cui noi versiamo, in cui versa il mondo delle costruzioni, è anche peggiore. Forse la parola non esprime quello che noi sentiamo. Se si crede ancora che il settore delle costruzioni sia il motore del sistema economico, allora che ci si renda finalmente conto che la recessione che noi attraversiamo è la più grave del dopoguerra. Oramai sono proprio necessarie, ma non a breve periodo, domani mattina, delle misure strutturali in grado di invertire la tendenza in atto. Bisogna dare risposta alla domanda abitativa, alla domanda infrastrutturale, alla qualità urbana. Tutto questo noi crediamo non tanto per dare una risposta al nostro mondo, e non solo, voglio dire, ma anche per avviare una crescita duratura del Paese e per ammodernarlo. Altrimenti io credo che se non si crede in questo mondo, a questo punto non si può credere in una crescita del Paese. Poi, piazza degli affari, noi rappresentiamo il 20% del PIL, per cui credo che siamo una categoria che a tutto campo, tutto il sistema, perché oggi non c'eravamo solo noi costruttori, c'era tutto il sistema delle costruzioni, possa rivendicare una presenza là dove si parla di affari. Sento una cosa, De Albertis, ma poi concretamente voi che cosa chiedete? Perché è chiaro che l'IMU probabilmente non vi ha fatto del bene, ma in questo momento... a me basterebbe evitare una manovra correttiva nel 2013 e l'aumento dell'IVA di un altro punto che scatterà in automatico, perché andremo a chiudere il 2013 ancora con un PIL negativo e quindi con un deficit che, non, a meno che non ci sia una manovra correttiva, non manterrà fede alle promesse date. Da dove possono arrivare i soldi, ma soprattutto a che tipo di incentivi voi state pensando? Ma prima di tutto io credo che valga la pena forse di porre al centro della questione una questione, che è questa storica questione dell'invarianza del gettito, il tabù dell'invarianza del gettito. Io credo, e nel nostro settore lo dimostra l'antica norma del 36% diventata 44%, se si creano detrazioni fiscali, se si abbassano le aliquote e si fa emergere il sommerso e soprattutto si dà spazio all'economia reale, è chiaro che a questo punto, voglio dire, il gettito per lo Stato aumenta, non diminuisce. Credo che la norma sul 36% l'abbia ampiamente dimostrato da questo punto di vista. Poi bisogna evidentemente fare delle politiche e definire le priorità. Il progressivo recupero del gap infrastrutturale, che poi le infrastrutture, soprattutto anche quelle piccole nella città, sono i veri gioielli di famiglia per questo paese. Siamo stufi di annunci, io credo che vadano fatte politiche di investimenti anche ambiziosi. Ci sono, per esempio, e questo mi riferisco anche alla norma sul patto di stabilità interno che va rimossa, ci sono comuni virtuosi che avrebbero la possibilità di investire e che invece credo che grazie a questa norma non riescano ad attivare. E anche sul piano della fiscalità, su cui non si riesce a smuovere, io credo che vada fatto un riordino sulla fiscalità, soprattutto sulla fiscalità immobiliare, che paradossalmente è molto più pesante che quella mobiliare. Forse anche solo rimettere in fila queste due cose e ridare equità, per cui una persona può investire indifferentemente nel settore mobiliare e immobiliare, credo che a questo punto sarebbe un'altra questione di fondo da riconsiderare. Ma per concludere, De Albertis, però ho capito cosa dice lei, provare a abbassare le aliquote per vedere se emerge più nero. In questo momento... dal punto di vista del governo, mi faccio difendere qualunque governo, uno rinuncia a una cosa certa che è il gettito per una cosa ipotetica, cioè la curva di Laffer, si abbassa la tassazione, emerge più nero. E io non so, se fossi qualunque ministro dell'economia, se prenderei con questi mercati, con queste tensioni, questo rischio. Altra cosa sarebbe dire andiamo a un pareggio di bilancio, ma non per forza nel 2013, tanto non ce la faremo nel 2014, garantiamo la nostra serietà ai mercati, però con un po' più di margine di manovra. Lei non pensa che tutto si giochi poi a Bruxelles più che a Roma? Io sono convinto che noi stiamo all'interno di una comunità europea, dobbiamo rispettarne determinate regole, però qualcuno mi deve spiegare perché alla fine le manovre in questo paese sono state recessive, mentre un paese come la Spagna, che soffre, non ha attuato politiche così recessive. Io credo che in questo momento bisogna avere anche un pochino di lungimiranza e probabilmente queste politiche attuarle anche in medio periodo. Non si può pensare di strizzare alle imprese imprese, il collo e tutto il sistema, e poi pensare che queste imprese siano capaci di ridare fiato all'economia. Ecco, io questo credo che nel quadro anche di quelli che sono le obbligazioni che l'Europa ci chiede, forse bisogna un attimo ripensarci. In bocca al lupo. Io con lei, ma anche con il vostro presidente Buzzetti, spesso tocchiamo un settore. Dico sempre le opere infrastrutturali, perché l'edilizia non vive di sole case, lo dico anche chi sta scrivendo gli sms su Facebook, anche le opere infrastrutturali sono edilizia, se poi vengono appunto, se hanno dei contratti e dei subappalti, o ripartiamo con degli investimenti anche infrastrutturali e mandiamo avanti gli investimenti infrastrutturali, liberando la possibilità per i comuni virtuosi di spendere per la manutenzione delle strade, per la manutenzione ordinaria, o qua non ne usciamo. Come si fanno gli investimenti infrastrutturali? Si fanno su base europea, e quindi non caricandoli tutti sul debito di uno Stato. Io altre alternative non ne vedo, perché sono investimenti che aumentano la competitività delle imprese e dell'area euro. In generale. Grazie al presidente di Assimpredi Lance Lombardia, Claudio De Albertis. Allora, devo dire, sì, alcuni accusano il mondo dell'edilizia però di aver fatto molto nero in questi anni, di aver avuto anni di vacche grasse e adesso piangono, ho capito, però non facciamo sempre tutto un erbo un fascio, per cui, e non è che siccome un settore è andato bene per alcuni anni adesso deve pagare più di altri. Tornerei invece sul tema delle tangenti o mediazioni d'affari. Allora, sono d'accordo che il paragone con il doping, l'ho detto in diretta, nel ciclismo è fuori luogo, perché quello è un reato e basta. La tangente, l'ho detto in tutti i modi possibili, che la tangente pagata a un politico è un reato, o che sia addirittura peggio ancora, che si intascano pure i manager, è un reato. Se parliamo del fatto che per vincere gare di fornitura all'estero ci siano dei mediatori d'affari, è innegabile. Qualcuno mi scrive: ma io pensavo che le nostre imprese vincessero solo in base alla loro capacità di competere con i loro prodotti. Anche, cioè, voglio dire, nel mondo dell'aerospazio difesa o del petrolio tu non hai tanti gruppi, non hai un catalogo di 1000 prodotti. Gli elicotteri nel mondo li fanno in 3, in 4 se vogliamo dirci russi, ok? E via così, sistemi d'arma di puntamento, siluri, navi da guerra, non è che ce ne siano tanti di produttori. Allora, se nel mondo del petrolio voi sapete benissimo quante sono le compagnie petrolifere che hanno un peso, che possono fare quello che fa la Saipem o che fanno i grandi gruppi petroliferi. Allora, se ti ritrovi con 3-4 concorrenti che usano mediatori d'affari, giro io a chi non è d'accordo alla domanda: voi cosa fareste? Sapendo che poi i dipendenti sono in Italia, che i fatturati vanno in Italia, che gli stipendi vanno in Italia, perché parliamo di operai dipendenti italiani. Rinunci alla gara? Rinunci al fatturato? Perdi utile e licenzi? Chiedo se lo fanno anche gli altri. Secondo aspetto, e poi lascio il traffico, non c'è nessun paragone possibile tra questo tipo di attività e la vicenda Monte dei Paschi. Perché nel momento in cui un gruppo vince una commessa, produce valore nel suo paese. Poi andiamo a capire se l'ha vinta, diciamo, con un mediatore d'affari o ci ha ricavato una tangente per altri fini, nel qual caso i PM fanno bene a intervenire. Ma nel momento in cui il gruppo Finmeccanica vince una commessa da quasi 700 milioni di dollari di elicotteri, sono 700 milioni di dollari che entrano in Italia. Il gruppo Monte dei Paschi, da quello che abbiamo visto, ha distrutto valore per gli azionisti, i risparmiatori, gli obbligazionisti del Monte dei Paschi, con operazioni spregiudicate che non hanno portato una lira, un vantaggio, un impiegato in più, anzi licenziamenti, e che hanno arricchito, visti 40 milioni depositati e scudati in Svizzera, alcuni manager, stando a quello che vediamo. Sono due casi completamente diversi. Adesso la borsa, c'è chi scrive: bene, bravo Barisoni, lei difende i disonesti, diventiamo tutti disonesti. Vabbè, non ci capiamo su questo tema. Allora, mi dite cosa deve fare un gruppo quando concorre per centinaia di milioni di appalti e di gare a livello internazionale per vendere una nave, un radar, un sistema di puntamento, per vincere una gara di esplorazione di un campo petrolifero. Se scopre che i concorrenti usano mediatori d'affari di quel paese e li pagano. Cosa deve fare? O usciamo dall'energia, usciamo dal petrolio, usciamo dal gas, usciamo dall'aerospazio, dal settore difesa, dall'elettronica avanzata, dall'aviazione civile. Perfetto, tanto la chimica l'abbiamo già persa, la farmaceutica pure, ma perdiamo pure l'energia e anche l'aerospazio difesa, ma va bene, produrremo solo prodotti di qualità DOP e slow food. Se questo può essere il futuro industriale di un paese, auguri e la borsa. Sì, va bene, sono un teorico della corruzione, scrive un altro. Va bene, basta, la borsa più 0,40% Milano, bene Buzzi Unicem più 3%, Exor più 2,90%, Mediaset più 2,50%, Prismian più 2,1%, Tenaris più 1,60% come l'Automatica, Ansaldo più 1,30% come Luxottica e Fiat, ma anche Atlantia, fronte opposto, Finmeccanica meno 4%, poi ne parleremo. Popolare di Milano meno 3,60%, Popolare Emilia Romagna meno 1,40%, Monte dei Paschi meno 1,20%. Paolo Paronetto, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Exor. Sì, per quanto riguarda Exor, diciamo che il titolo l'altro ieri mercato chiuso la società ha annunciato la conversione delle azioni privilegiate di risparmio in ordinarie e ieri queste ultime, le ordinarie, avevano perso terreno, mentre le altre due tipologie di azioni erano andate bene. Oggi vanno tutte bene, le ordinarie sono più 2,93, mentre le privilegiate hanno fatto più 3,02 e quelle di risparmio più 2,3. Già ieri gli analisti avevano giudicato positivamente operazione non solo per i detentori di privilegiati di risparmio, ma per l'intera società, perché semplifica la struttura del capitale, rende più liquido il titolo e inoltre, se aggiungiamo una visione un po' più speculativa, rende più facile, secondo gli analisti, in futuro delle operazioni carta contro carta e quindi eventuali acquisizioni o fusioni. Non c'è nulla ovviamente allo studio, almeno che si sappia, però diciamo che la struttura del capitale è più idonea anche per questo tipo di operazioni e quindi oggi il titolo è salito e è stato uno dei migliori del FTSE MIB. Allora, ancora, sì, ho dimenticato la siderurgia, abbiamo perso pure quella. Dai, andiamo avanti con i settori. No, adesso c'è l'Ilva, ma lì è una vicenda diversissima. Mediaset più 2,60, dicevo, in recupero. Che succede sulla Popolare di Milano? Anche oggi in altalena, è giorni che si ipotizza che possa trasformarsi in una banca non più popolare, ma un SPA, e quindi essere più contendibile. Esattamente, proprio ieri sono state presentate ai consigli questo progetto che prevede tra le altre cose la trasformazione in SPA. Ieri il titolo aveva guadagnato il 7% e però ancora appunto una fase di elevata volatilità, perché i tempi sono ancora lunghi e incerti e inoltre non è ancora chiaro se i sindacati interni, che comunque finché la banca è popolare mantengono il controllo dell'assemblea, non è ancora chiaro se daranno loro via libera a questo progetto, quindi in attesa di capire se davvero sarà realizzabile questa operazione, diciamo che oggi gli investitori che ieri avevano guadagnato sono passati all'incasso e quindi il titolo ha perso il 3,63%. Ancora, per quello che riguarda altri titoli, Seat pagine gialle, insomma, di nuovo in altalena. Quanto ha chiuso oggi? Ha perso il 16%, il peggiore dell'intero listino, oltre alle sue vicende ben note, ormai la società ha chiesto il concordato preventivo. Oggi c'è anche la questione della concorrente francese Peugeot, che anche lei è andata molto male, ha perso circa il 7% a Parigi dopo i conti 2012 e le prospettive per il 2013 giudicate deludenti. Diciamo che l'intero settore appunto del business di Seat pagine gialle e di Peugeot è un po' in crisi e quindi tutto il comparto ne risente. Ancora Prismian più 2,13%. Vorrei chiudere con Peugeot e Fiat, perché noi abbiamo appena raccontato i conti drammatici di Peugeot, ma il titolo come si è mosso? Il titolo è stato tra i migliori per l'intera seduta e ha trascinato tra l'altro all'avviato l'intero comparto. Diciamo che la lettura che viene data nelle sale operative è che il titolo aveva perso molto terreno in questi mesi, proprio perché stavano venendo alla luce i guai dal punto di vista del conto economico, i guai finanziari, i guai della società francese. Oggi gli investitori sperano che le cattive notizie siano alle spalle, quindi qualcuno inizia a riprendere posizione. Nel dettaglio, Peugeot ha guadagnato il 7,06% a Parigi, trascinando il comparto auto a più 1,05%, Fiat in Italia è salita dell'1,36%. 18:08, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso parliamo come se non avessimo parlato fino adesso, insomma, degli sviluppi della vicenda Finmeccanica, al di là del ragionamento, su cui non voglio più tornare, di come si fanno le gare in certi settori quando le commesse sono da centinaia di milioni e anche delle volte quando non sono così alte, ma parliamo di grandi gruppi di commesse che valgono centinaia di milioni in settori specifici. Qui c'è un altro punto che affronteremo a breve, ed è invece qui c'è una responsabilità, a mio avviso, di come la vicenda è stata gestita, e cioè in altri paesi non si sarebbe arrivati all'arresto in carcere dell'amministratore delegato e presidente ancora operativo, parlo di Finmeccanica chiaramente, perché un conto è arrestare un presidente, amministratore delegato operativo, e un conto è arrestare, e non voglio entrare sul reato, un ex presidente, ex amministratore delegato. E cioè si poteva, visto che il tesoro è azionista, chiedere a Orsi, vista l'indagine è da 2 anni che va avanti, di farsi da parte, in modo che qualunque poi procedimento di carattere giudiziario non avrebbe intaccato in maniera diretta l'operatività di un gruppo che è il secondo gruppo industriale di questo paese, giusto per ricordarcelo ogni tanto, no? Cioè, 2 miliardi e 7 di capitalizzazione, ma comunque era molto più alta, 18 miliardi di giro d'affari Finmeccanica e 70.000 dipendenti, giusto per capirci, 40.000 dipendenti sono in Italia, 10.000 negli Stati Uniti, 9.000 in Inghilterra, 3.700 in Francia, 3.200 in Polonia e 1.000 in Germania. Tra l'altro dentro Finmeccanica ci sono Augusta Western, che fa elicotteri, ma Alenia, ATR, Selex, Sistemi Integrati, DRS Technologies, che è un colosso americano nel settore delle tecnologie e dell'elettronica per la difesa, e poi Otomerara, Ansaldo Energia, Ansaldo Breda e Ansaldo STS. Otomerara fa cannoni, mentre Ansaldo STS fa la segnaletica per le infrastrutture, soprattutto ferroviarie, ma anche per le metropolitane, e poi produce il jet Eurofighter e fornisce componenti sia alla Boeing che all'Airbus. Questo per dare idea complessiva. Le notizie di oggi: non si capisce se l'India abbia congelato i pagamenti di questi 12 elicotteri. Il contratto complessivamente vale, perché c'è anche la manutenzione, l'assemblaggio, 750 milioni di dollari. Stamattina sembrava che fosse così, poi in realtà il Ministero della Difesa indiana non ha confermato lo stop ai pagamenti. Il Consiglio di Amministrazione è appena iniziato, ci colleghiamo con Gianni Dragoni, il giornalista del Sole 24 Ore che da sempre segue anche Finmeccanica. Buonasera Gianni. Ciao, buonasera. Dunque, ti sento giù, che succede? No, stai somatizzando o no? Pacato. Tra l'altro c'è chi mi dice: perché non parlate delle pressioni fatte da Orsi sul presidente Sole 24 Ore? Ne abbiamo parlato ieri, ho fatto anche l'applauso a Gianni Dragoni, e oggi c'è una nota molto importante del direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, e anche del CDR, del comitato di redazione del Sole 24 Ore, che ribadisce, appunto, prende quasi come una medaglia il fatto che il gruppo, che Orsi si fosse, giustamente come una medaglia, si fosse offeso, perché vuol dire che stavate facendo il vostro lavoro. Io temo sempre quando ricevo i complimenti, diciamo, di chi detiene poi il potere economico. Il giornalismo deve fare il cane da guardia, non il cane da riporto, che è un altro tipo di giornalismo quello. Comunque, il CDA, il Consiglio di Amministrazione, è iniziato, verrà nominato Pansa, immagino, l'attuale direttore generale. All'entrata tutte le voci, le indicazioni dicono che è così, cioè che il direttore generale Alessandro Pansa dovrebbe ricevere deleghe per una gestione transitoria, come se quindi la scelta effettiva poi fosse rimandata a circa 3 mesi, quando ci sarà l'assemblea degli azionisti, ma soprattutto ci sarà un nuovo governo, quindi il nuovo governo che dovrà decidere chi sarà il vertice di Finmeccanica. Certo, Pansa, se questo sarà confermato, guadagna posizioni e potrebbe poi essere anche lui l'amministratore delegato definitivo. Comunque sembra che sia una scelta temporanea, poi non è detto che non ci sia invece la sorpresa alla fine del consiglio, e comunque Orsi è tuttora presidente e amministratore delegato, perché non si è dimesso, non intende dimettersi. Quindi probabilmente verrà anche nominato il consigliere anziano, l'ammiraglio Venturoni, come vicepresidente, semplicemente per, diciamo, firmare le carte e convocare il consiglio d'amministrazione. Ecco, Gianni, oggi il titolo ha perso un altro 4% in borsa. La preoccupazione è che, al di là delle inchieste giudiziarie, perché ripeto, poi i magistrati dovranno capire se veramente è stata pagata questa mazzetta, diciamo così, e se è stata tutta pagata, diciamo, per la mediazione d'affari in India, o se una parte di questo, come, se non ricordo male, sostenne Borgogni, l'ex capo delle relazioni esterne di Finmeccanica, venne girata invece in Italia, e lì Borgogni citò la Lega e ambienti vicini a Comunione e Liberazione, e in quel caso cambia tutto lo scenario, lo ripeto, anche da un punto di vista industriale. Però le preoccupazioni in questo momento del gruppo Finmeccanica, tra l'altro proprio in questi giorni inizia ad Abu Dhabi una fiera importantissima per il settore aerospazio difesa, che anche la parte civile, non è solo la parte militare. Faccio notare che i paesi dell'OPEC sono quelli, assieme al Brasile, all'India e alla Cina, che in questo momento hanno i soldi. Le preoccupazioni dal punto di vista industriale? Le preoccupazioni sono parecchie, anche perché il gruppo Finmeccanica è impegnato in ristrutturazione e razionalizzazione di settori importanti, ad esempio la nuova Super Selex, che si chiama Selex ES, che ha messo insieme tutte le società del gruppo nell'elettronica, avionica e sistemi, quello che dovrebbe essere il cuore, anche quello di maggior valore di tutto il mondo aerospaziale, aeroplani, elicotteri. E questa società creata, diciamo, con l'accorpamento entro il 2012, però ancora deve ufficializzare un piano industriale, questo era già un problema da qualche tempo, dal quale si attendono alcune migliaia, dico migliaia di esuberi, e l'annuncio è stato rimandato di fatto a dopo le elezioni. Voi potranno smentirlo, ma di fatto doveva essere fatto entro la fine del 2012, e su 18.000 lavoratori ci saranno alcune migliaia di esuberi e dei siti italiani che chiuderanno. Questo comunque è un problema aperto. La società ha bisogno di una guida sicura e, diciamo, duratura per mettere a punto queste decisioni, che avranno anche dei contraccolpi sociali. Rimane il problema, naturalmente, se confermare o no il piano di cessione che Orsi voleva, da cui Orsi si attendeva 1 miliardo di euro di incasso. In realtà questo non è venuto l'anno scorso. C'è comunque il grosso rebus dell'Ansaldo Energia, che molti temono sia un pezzo importante di industria che finisca stranieri. Ci sono solo gruppi stranieri in corsa. Ci potrebbe essere anche una revisione di questa strategia, cioè Finmeccanica deve ridurre l'indebitamento, va bene, ma l'Ansaldo Energia, anziché venderla a gruppi stranieri, si parla di coreani, e c'era la tedesca Siemens, potrebbe vedere un intervento in campo o della Cassa Depositi e Prestiti o altri gruppi, naturalmente sempre che lo Stato abbia le risorse per farvi fronte. Poi c'è il problema della Lemia, che con la crisi del Boeing 787, il Dreamliner, non per colpe dipendenti dalla Lemia, perché ha messo a posto le sue produzioni di grottaglie in Puglia e Foggia, però se c'è un rallentamento delle consegne, se ci sarà un ulteriore blocco di questo importante aereo, anche la linea Aermacchi potrebbe subire dei contraccolpi nelle sue linee di produzione. Ecco, su questo tu fai bene a ricordare le varie ipotesi. Siemens, visto che citavi Siemens, magari qualcuno, qualche ben pensante, si ricorderà lo scandalo Siemens, no? Tangenti pagate lì. Però detto questo, c'è chi teme oggi su molti giornali che la capitalizzazione di borsa di Finmeccanica, arrivata a 2,5 miliardi, poca, possa renderla scalabile. In realtà il tesoro ha una quota del 30%, quindi dovrebbe evitare e allontanare ogni rischio di scalata, però il timore è che poi si possano vendere pezzi di Finmeccanica a prezzi di sconto, perdendo anche elementi, centri di ricerca e centri di produzione d'eccellenza per il paese. Questo rischio c'è, soprattutto se la società, a parte l'impatto sulla borsa, che è importante, ma potrebbe essere sempre un po' controllato dal governo, tra la partecipazione che ha e anche la golden share detenuta dal governo, dovesse perdere commesse, cioè avere difficoltà, e questo è, c'è da prevedere che ci sarà più difficoltà comunque per la Finmeccanica, per l'immagine peggiorata che ha per avere commesso su altri mercati, soprattutto all'estero, e quindi questo impoverirebbe i conti, farebbe sì, questa è la cosa che mi manda più in bestia, perché se Orsi ha sbagliato è giusto che paghi, che se stava inquinando le prove è giusto che vada, che venga arrestato, lo prevede la legge è uguale per tutti, però mi manda in bestia l'idea che Finmeccanica possa perdere delle gare per, con prodotti buoni, ci mancherebbe, rispetto a concorrenti, perché si è fatta il nome che è un gruppo corrotto, quando parliamo di concorrenti che si chiamano Siemens e Thales, travolti e coinvolti in scandali ancora più grossi. Per questo, cioè, capisci, non è una gara di virginità quella che si fa su quei mercati, Gianni, come tu sai bene. Saranno probabilmente, anzi sicuramente sono gli stessi concorrenti che utilizzeranno le informazioni che arrivano appunto dall'Italia, informazioni su fatti che devono essere accertati e che avrebbero dovuto indurre il governo, magari informato dalla magistratura, a intervenire prima per porre fine, come tu Sebastiano hai ricordato, alla situazione prima dell'arresto, che magari l'amministratore fosse l'ex e non più l'amministratore in carica. Ma devo dire, ci sono anche altri gruppi nel mondo della difesa, senza aver avuto arresti del numero uno, che in questo momento devono affrontare accuse di corruzione, per esempio la Rolls Royce inglese che fa motori, è il terzo grande produttore di motori d'aereo per aerei, e c'è il gruppo franco-tedesco EADS che controlla l'Airbus, è accusato di poter aver pagato tangenti nella vendita degli aerei caccia Eurofighter in Austria, aerei cui produce anche la Lenia, partecipa a questo, ma diciamo il servizio commerciale era guidato dalla EADS, quindi in questo caso l'accusa di Mazzetta è caduta su qualcun altro, per cui anche altri hanno qualcosa di cui non possono vantarsi. Sì, e a me è molto irritato appunto, visto che in quei settori e sulle gare internazionali tutto il mondo è paese, mi ha dato molto fastidio leggere con la spocchia britannica o anglosassone, che mi sembra del tutto fuori luogo in questo momento, su Wall Street Journal e Financial Times un'analisi del tipo, ecco, il classico gruppo all'italiana, si pagavano tangenti, ma per favore andiamo a guardare cosa fanno i vostri gruppi e poi ne ragioniamo. Il che non vuol dire difendere Orsi, vuol dire difendere il gruppo Finmeccanica. Grazie Gianni Dragoni, però su questo tema restiamo, perché la figura che abbiamo fatto si poteva evitare, come ricordavamo, forse intervenendo prima. E chi doveva intervenire? L'azionista di maggioranza. E chi è l'azionista di maggioranza? Il Ministero del Tesoro e quindi il governo. E ripartiamo da qui allora. Al di là di quella che sarà la posizione di fronte ai magistrati attualmente lo è ancora presidente e amministratore delegato del gruppo Finmeccanica Giuseppe Orsi, si poteva fare qualcosa per evitare, non ci mancherebbe l'inchiesta della magistratura sacrosanta e sacra, negli arresti di Orsi, perché se il PM ha ritenuto che fosse inquinamento delle prove e reiterazione del reato, bene ha fatto, come fa con tutti i normali cittadini della Repubblica, ma per evitare, non mi viene un altro termine, che insomma lo sputtanamento, scusatemi il termine, mediatico internazionale del secondo gruppo industriale italiano, per diciamo, accuse che potrebbero essere chiaramente estese a tantissimi altri gruppi internazionali. Se lo chiede oggi Guido Gentili sul Sole 24 Ore, dando una risposta abbastanza netta. Guido, buonasera. Buonasera. Allora, ripeto, se Orsi ha sbagliato deve pagare, se ha inquinato le prove è giusto che stia in carcere, se ha cercato di reiterare il reato è giusto che stia in carcere e via così. Se si scopre che ci sono delle tangenti girate alla politica è giusto che venga condannato anche per questo. Sulla mediazione e i compensi da mediazione in queste gare internazionali invece ho un'opinione molto diversa, bisogna competere ad armi pari e se gli altri pagano un mediatore lo devi pagare anche tu, perché sennò perdi tutte le gare. Detto questo, come si poteva evitare o ridurre comunque il danno di immagine? Si poteva evitare con un intervento del governo, e vorrei ricordare una data, cioè Orsi, presidente e amministratore delegato della Finmeccanica dal 1 dicembre del 2011, dopo essere stato nominato amministratore delegato nel maggio del 2011, è stato raggiunto da un avviso di garanzia per questa inchiesta di presunte tangenti di 51 milioni il 24 di aprile del 2012. Quindi questo era il primo grande campanello d'allarme che doveva, diciamo, suonare per il governo e la maggioranza, la famosa strana maggioranza che lo sosteneva. E poi c'è stato un ulteriore e secondo me definitivo passaggio quando a novembre il Fatto Quotidiano pubblica l'intercettazione relativa al 23 di maggio, sì, parliamo sempre del 2012, in cui Orsi parla con l'ex presidente dello IOR Gotti Tedeschi e si dilunga tra i tanti argomenti che vengono affrontati su, diciamo, la governance di Finmeccanica. E quindi diciamo, era chiaro a quel punto, sommando, diciamo, le due cose, raggiunto da un avviso di garanzia e la posizione che Orsi aveva sui temi della governance Finmeccanica, che il governo e le forze politiche dovevano in qualche modo agire. Non c'erano i presupposti, diciamo, perché Orsi aveva tutto il diritto peraltro di difendersi, ha sempre negato tutto e quindi è chiaro che lui dice io non mi dimetto, però c'erano i presupposti per un intervento, se non altro di moral suasion, come si suol dire in questi casi, per spingere appunto alle dimissioni Orsi. Questo avrebbe evitato un contraccolpo gigantesco, che è quello che abbiamo avuto ieri con la notizia dell'arresto, e avrebbe evitato, diciamo, una brutta figura a livello internazionale per l'azienda, per il gruppo che va difeso, perché opera su dei mercati difficili e opachi, e quindi anche qui in questo caso lo Stato, diciamo, azionista dovrebbe fissare delle regole precise che riguardano il modo di competere su questi mercati difficili e scivolosi, e quindi non, diciamo, lasciare poi all'azienda una libertà che poi viene di volta in volta, diciamo, messa sotto tiro. E quindi ci saremmo evitati una grande e brutta figura internazionale per l'Italia, per il Paese e per questo grande gruppo. Sì, d'accordissimo con te che appunto quando lo Stato è azionista può anche stabilire in maniera molto trasparente che su certi mercati, come tu li chiami, scivolosi, e sei buono, in cui i tuoi concorrenti operano sempre con mediatori d'affari, anche tu puoi mettere a bilancio, io non ci troverei nulla di strano, mettere a bilancio delle consulenze che poi appunto sono attività di lobby, di tentativo di non partire svantaggiati in una gara, però fissando dei paletti, perché sennò poi io dico non sanno più come muoversi, devono muoversi come fanno i loro concorrenti oppure devono muoversi facendo finta che gli altri non lo facciano, a quel punto perdi le gare. Io avrei degli aneddoti ma non li posso raccontare su come si perdono le gare in Cina per esempio, e come si riesce ad arrivare sempre secondi mai primi, perché diciamo non si sono seguite le procedure d'affari e dei mediatori d'affari cinesi, ma me ne sto zitto. L'ultima domanda però, Guido Gentili, perché secondo te il governo non si è mosso nemmeno con un'operazione di moral suasion? Per distrazione o perché c'erano troppi interessi in gioco? Perché? Secondo me riteneva che a fronte dell'intransigenza di Orsi, ripeto, legittima dal suo punto di vista, evidentemente le condizioni anche politiche della maggioranza non erano tali per cui il governo potesse muoversi liberamente, quindi penso, mi auguro che abbia fatto almeno una verifica di carattere politico con i tre soci di maggioranza, ricordo il PD, il PDL e l'UDC, ma evidentemente non ha visto lo spazio politico. Avrebbe secondo me potuto e dovuto farlo anche in presenza di una sostanziale veto delle forze politiche, perché era interesse del Paese invece che l'azionista di maggioranza di Finmeccanica e quindi il governo e quindi il tesoro si muovesse con forza per dire ad Orsi, se non altro, ripeto, fai un passo indietro perché te lo chiediamo noi che siamo l'azionista di maggioranza. Invece non ha né confermato la fiducia ad Orsi né confermato, diciamo così, la sfiducia, e immaginando che forse la magistratura sarebbe comunque arrivata dopo le elezioni e quindi il problema chi sarebbe dopo. Hanno fatto male i conti, tra l'altro oggi c'era una dichiarazione che stavo cercando di Grilli, del premier Mario Monti, che dice adesso si è in grado, vista la situazione nella quale si trova il presidente amministratore delegato di Finmeccanica, di prendere provvedimenti ai fini di assicurare la corretta governance della società. Adesso si è in grado, e grazie, quello è in carcere. Cioè, il ragionamento andava fatto un po' prima di arrivare, diciamo, a questa ennesima figura fatta su un gruppo che poi deve andare a competere. A me interessano i 40.000 dipendenti italiani di Finmeccanica e anche gli altri all'estero. Non mi interessa il destino di Orsi, lì ci penserà la magistratura, gli avvocati e quant'altro. Grazie, grazie Guido Gentili. Da Sebastiano Barisoni veramente tutto. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi.